Ciao a tutti e a tutti, inizio parlando appunto del rapporto del Nadim, che è un centro che si occupa di riabilitazione delle persone che vengono torturate appunto dallo Stato di Polizia. E il Nadim appunto è uno dei tanti centri di organizzazioni non governative che sono appunto sotto attacco, sotto la dittatura del Sisi, con rischio di chiusura, ma loro continuano appunto il loro lavoro di ogni mese, in cui appunto parlano di numeri e di quante persone spariscono, appunto vengono assassinate da questo regime. Il rapporto per il mese di marzo appunto è di 220 persone assassinate dal regime del Sisi, di cui appunto 75 persone sono state colpite da proiettili, 6 esecuzioni avvenute dopo l'arresto, una persona è stata picchiata appunto fino alla morte. 6 persone sono state appunto uccise nei luoghi di detenzione, quindi parliamo di carcere o di questure. 60 casi di torture e di abusi sempre da parte della polizia, 39 casi assassinati o lasciati morire appunto all'interno delle carceri per mancanza di cure mediche. Continuano anche le sparizioni. Nel mese di marzo il rapporto dichiara che ci sono stati 105 casi di sparizioni, di cui 10 dopo essere stati assolti dalla procura stessa, e 21 persone sono state ritrovate dopo le sparizioni. E come ultimo dato c'è quello di 43 casi di abusi da parte di polizia e o procura su lavoratori e lavoratrici. Quindi questo diciamo è quello che accade tutti i giorni in Egitto, e appunto è un rapporto molto importante, perché ci dà anche un'idea di insomma fino a che la brutalità appunto di questo stato, di questo regime, di questo regime che avanza imperterrito, che non guarda in faccia a nessuno. Poi vorrei invece parlare un po' della situazione in carcere. Come prima cosa, c'è stata la settimana scorsa da parte di un giornale vicino appunto al governo, che praticamente è andato nel carcere di l'Arab, di cui abbiamo già parlato, che è uno dei carceri più repressivi qui in Egitto, e in pratica è stata una farsa in cui praticamente sono usciti su questo giornale di Stato delle foto in cui si vedono campi da calcio, in cui si vedono in cui il cibo appunto è buono, in cui l'acqua è potabile e tutto il resto, che naturalmente non ha niente a che vedere con la realtà. Ricordiamo che all'interno di questo carcere c'è il compagno Youssef, un altro compagno Loai, ma ci sono tantissime persone all'interno di questo carcere, anche alcuni degli islamisti o di appartenenti anche ai Fratelli Musulmani, che sono in sciopero della fame, e quindi naturalmente insomma sono tutte menzogne quelle che sono uscite, e naturalmente soprattutto Rannoa, che è appunto la moglie di Youssef, che va alle visite insomma settimanalmente, e racconta di quanto sia difficile far entrare gli alimenti, in cui a seconda di come gli gira il poliziotto di turno decide se far entrare qualcosa piuttosto che qualcos'altro, e quindi la situazione naturalmente è tutt'altro che reale rispetto a quello che appunto loro hanno cercato di far conoscere, insomma, alle persone fuori. Diciamo che è il caso tipico che riguarda tutti i contesti carcerari, dove insomma gli stati provano a coprire le violenze e l'abominio che lo stesso carcere è, cercando insomma di dare altre immagini, e poi invece veniamo a sapere da fonti dirette e solo diciamo rimanendo in contatto con le persone recluse si riesce a sapere qual è la realtà all'interno di queste mura, di queste gabbie. Quindi insomma nella sfortuna di avere dei compagni detenuti, ovviamente rispetto alla solitudine di tante altre vite, di tanti altri detenuti che magari non hanno la possibilità di far uscire la loro voce, noi possiamo sapere qual è la verità rispetto a queste carceri grazie al fatto che si hanno i contatti. Esatto, perché comunque i compagni, anche se sono in carcere, non è che smettono di lottare o di denunciare gli abusi o quello che avviene. Naturalmente, soprattutto in Egitto, non so, se sei un detenuto politico che non sei appartenente naturalmente alla destra, quindi fratelli musulmani o islamisti eccetera, c'è anche una modalità diversa di rapportarsi con i compagni e le compagne, perché naturalmente sanno che al minimo atteggiamento solito loro, fondamentalmente c'è una reazione, vengono denunciati, cioè i compagni ne parlano e quindi hanno dei riguardi nel insomma interagire con i compagni e le compagne dentro. A questo proposito, infatti, ti volevo chiedere qualche aggiornamento riguardo la compagna Mainur, la quale noi ricordiamo molto bene diverse lettere, diversi scritti, poiché insomma di solito non è che parla della propria condizione e delle proprie rivendicazioni, ma insomma mette al centro tutta la popolazione carceraria, in questo caso si parla delle detenute, e quindi ti chiedevo se ci sono aggiornamenti che la riguardano, perché insomma è una delle voci da dentro le carceri egiziane che permette di far uscire le voci dei senza voce, insomma. Esatto, sì, Mainur praticamente la settimana scorsa la famiglia è andata alla visita che c'è ogni due settimane, e Mainur praticamente dopo aver saputo quello che era appunto della facciata che avevano cercato di dirigere questo giornale egiziano riguardo alle condizioni del carcere, ha deciso tramite il suo avvocato di denunciare effettivamente allo Stato quello che realmente è la condizione del carcere in cui si trova. Lei si trova nel carcere di Damanhur, che è un carcere molto piccolo in cui appunto la capienza di 400 persone, ma da qualche mese diciamo che visto che sono aumentati e continuano ogni giorno ad arrestare persone nuove, ed è difficile che persone vengano scarcerate, sono arrivate a 850 detenute. Questo è un carcere solo femminile, e quindi la condizione è di sovraffollamento. Lei si trova appunto in una cella di 5 metri per 6, in cui appunto c'è anche una parte che è adibita al bagno, quindi è ancora più piccola la cella in cui si trova, insieme a 28 detenute. Quindi ha denunciato questo, ha denunciato il fatto che è difficile, cioè nel senso non riesce neanche a sdraiare il corpo completamente, perché naturalmente essendo sovraffollato lo spazio è ancora più limitato. Ha parlato del fatto che appunto non c'è reazione, la finestra che c'è molto in alto, quindi non vedi la luce del sole, c'è una ventola che in disfunzione, che praticamente non serve a niente. Naturalmente è una condizione veramente molto, molto difficile da gestire, ma appunto Maynur insieme alle persone con cui è reclusa, già il fatto che comunque lo denuncia lo dice, vuol dire che lei sta bene e che continua a lottare nonostante la sua condizione di detenzione. Poi vorrei continuare parlando invece degli studenti. Proprio ieri leggevo che c'è stata un'altra retata in cui una ventina di studenti sono stati arrestati. In particolar modo volevo parlare di uno studente che è stato arrestato in una delle manifestazioni che c'erano state nel 2013, e praticamente lui ha avuto questa pena di 15 anni, e questo ragazzo era al secondo anno di ingegneria, è entrato in carcere che aveva 21 anni e praticamente parla del fatto che quando il padre è venuto a mancare, insomma, il sistema carcerario non gli ha neanche dato la possibilità di andare a salutare il padre durante il funerale. Purtroppo non riusciamo a stare dietro a tutte le persone che sono recluse, ma già il fatto che ogni tanto escono fuori racconti di persone, compagni e compagne, questo appunto ci aiuta a fare un quadro generale di quello che può voler dire vivere sotto la dittatura nel luogo più repressivo che c'è, che appunto quello del carcere. Guarda, se hai qualcos'altro da aggiungere, altrimenti noi ti invitiamo a contribuire anche la prossima settimana. Sì, come ultima appunto cosa vorrei parlare delle buone notizie. Avevo parlato la scorsa settimana di Gamal Abdel Fattah, che è un signore di 68 anni che ha meditato, insomma, durante tutta la sua vita, è stato in carcere più volte e l'ultima volta era stato arrestato perché aveva appunto un cartello in mano, e quindi quando è stato arrestato abbiamo scoperto che aveva 5 anni in assenza da scontare di carcere con l'accusa di sovvertimento dello Stato. Poi per fortuna l'udienza c'è stata appunto se non sbaglio sabato scorso ed è stato assolto. Invece poi c'è stato il ricorso dei compagni ad Alessandria, lo hai Yusuf, che stanno nello stesso processo di Maynur, ma il ricorso è stato rigettato. Comunque a Maynur e Yusuf in particolare mancano pochi mesi, dovrebbero essere rilasciati ad agosto. Lo hai invece, visto che si trovava nello stesso processo di Maynur per Khaled Said, il ragazzo che era stato ammazzato nel 2010, aveva appena finito di scontare 2 anni e adesso si ritrova a scontare la pena di 1 anno e 3 mesi che loro praticamente hanno quasi già scontato. Quindi questa è la situazione, i compagni dentro continuano a lottare e noi non possiamo fare altro che dare voce alle persone che sono private della propria libertà. Noi ti ringraziamo tantissimo, sei invitata anche la prossima settimana per aggiornarci. Un abbraccione. Grazie a tutti voi. Ciao. Ciao.